It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è ammorbata da pesanti miasmi, K e Drago affrontano il terrore dello stamping out. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Lo stamping out, ovvero l'abbattimento coatto di tutti gli animali malati, infetti, sospetti di infezione e sospetti di contaminazione, può essere applicato nei territori indenni dove la malattia è appena arrivata, come misura per evitarne l'endemizzazione. Una tale drastica misura può funzionare solo se applicata celermente e a patto che non sia già instaurata la trasmissione tramite i vettori competenti. Deve avere come bersaglio, sta a sentire qui, tutti gli animali recettivi in un'area sufficientemente vasta da garantire l'eliminazione di tutte le possibili fonti residue di infezione. Naturalmente tale misura ha valenza sanitaria solo se esistono le condizioni sopra descritte e solo se le condizioni ambientali non sono favorevoli all'attività biologica dei vettori dell'infezione, eccetera, eccetera. In situazioni diverse da quelle descritte sopra, l'abbattimento degli animali è giustificabile per motivi di benessere animale, e cioè per risparmiare inutili sofferenze agli animali malati. Hai capito, K? Il manuale di profilassi dice che lo stamping out, alla fine, lo si fa per il bene degli animali. Sì, sì, sterminarli tutti per il loro bene. Sai chi è che voleva fare così con gli indigeni del Congo belga? Il colonnello Unghiute. Ma cosa dici? Il colonnello Unghiute è un indigeno del Congo belga. Era Kurz, Drago. Kurz. Comunque era quello di Cuore di Tenebra, Drago. Exterminate the brutes, aveva annotato a margine del suo diario. Sterminate i bruti. Conosci la storia, no? Cuore di Tenebra, no. Pensavo fosse una telenovela brasiliana tipo 30 Gibbuac, 50 la Moa. No, invece era un libro. Un libro, un libro rosa. Cuore di Tenebra. Rosa, mica tanto. Joseph Conrad, presente? Conrad, quello delle oche, l'imprinting. Printi? Ma no, quello era Conrad Lorenz, Drago. Con te perdo tempo. Perdi tempo. La letteratura inglese non è il tuo forte. E poi Conrad era polacco. Ibero, polacco. Sì, ibero. E comunque, Drago, lo sterminio degli uccelli è una misura drastica e irrazionale, altro che manuale di profilassi. Vuoi che ti dica, stamping out? Ma no, stamping out. È come se, uccidendo i volatili, dichiarassimo un'ennesima guerra alla natura. Sì, che poi mi ricordo che già anni fa i sindaci delle città avevano deciso di combattere i piccioni. Ti ricordi? Sì, sì, mi ricordo. E non per l'aviaria, ma per un sacco di altre malattie. Emangime avvelenato, diritto di sparare con la doppietta, tiro con l'arco. E adesso è anche peggio. Ti immagini se di colpo venisse diffusa la notizia che i piccioni sono portatori dell'aviaria. Piccioni, Ma ti immagini per Venezia che catastrofe sarebbe? Ostrega. E per Cucamonga? La fabbrica dei polli. Mangime avvelenato per tutta la nazione, cresce la tensione. Oh, oh mio Dio, un piccione, un piccione, un piccione, un piccione, dobbiamo trovare la soluzione. Sei sterilizzato a spese dello Stato. Non servi proprio a niente, caghi solo sulla gente. E poi sei un piccione, un piccione, un piccione. Non sei solo un piccione, sei solo un cacciagione. La cacciagione. Io vuoi. Cappa, mi è venuta un'idea. Una volta ogni tanto ci difenderemo dall'aviaria come ci si è difesi dalla SARS. Te la ricordi la SARS? Sì, sì, la salsa SARS. Ma che salsa SARS? La SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, l'influenza cinese di qualche anno fa. Sì, mi ricordo. Andavo in giro tutti con la mascherina. Ecco, bravo, copriti la bocca. Hai capito, quindi? Cosa devo aver capito? Che adesso la mascherina torna prepotentemente alla ribalta grazie alla aviaria. Ho trovato questo bellissimo sito www.alcocontrol.it che vende tra l'altro etilometri e modi per scoprire la droga nelle feci, nelle urine, nei capelli di chiunque, lo vendono ai genitori, alle scuole, eccetera, eccetera. Sono degli infamoni, però sì. Ecco, questi qua vendono anche mascherine per l'aviaria e le pubblicizzano proprio così. Mascherine per l'aviaria. E che mascherine sono? Normali mascherine di tessuto. Ma allora perché contro l'aviaria? Perché adesso va di moda l'aviaria. Avevano due container di mascherine invendute dai tempi della SARS e adesso non stanno più nella pelle della felicità perché l'aviaria li aiuterà a sbarazzarsi di quelle mascherine. E te ne vendono 15 da adulti in una confezione oppure 20 da bambini più o meno a 100 euro. Che cosa sono 100 euro davanti alla vita dei vostri bambini? Nenne. Io il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere volante. Io il più bianco, lucente intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante, ridotto così come cadavere spiaggiato, così come animale contagioso ammalato. Ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte il mio canto, e questo stanotte il mio canto. And the animals suffer. Pronto? Sono l'amministratore delegato, pronto? Non c'è nessuno? Vabbè, lascio il messaggio, non riesco a venire oggi, non passo, non ce la faccio. Sono stressato, sono troppo stressato, sto lavorando come un pazzo. Sono impegnato in un'acquisizione di importanza vitale, un'acquisizione che rappresenta il primo passo nella nuova strategia approvata nell'ultimo consiglio di amministrazione. Dobbiamo fronteggiare la crisi del mercato e creare i presupposti per il rilancio della compagnia. Quindi ho deciso di tentare questa strada, la strada di una joint venture con la Impanando e Marchetti di Viale Papiniano. La Impanando cederà alla nostra compagnia un ramo d'azienda, quello dei petti di pollo, a fronte di un investimento che faremo noi e che verrà utilizzato dalla Marchetti per l'implementazione dei servizi informativi. Questi servizi informativi sono fondamentali nell'attività di e-commerce, incentrata nella produzione e vendita online delle mai troppo celebrate crocchette di purè di patate. Le crocchette di patate della Impanando e Marchetti. Vi saluto. Che cosa succederà adesso? Riuscirà la joint venture tra la fabbrica di polli e la Impanando e Marchetti? Forse non lo sapremo mai, ma sintonizzatevi comunque domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo finanziario allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Nenna. La mamma arriva. Pepe. Io sono il tuo papà. Sì. Nè. Sì. Tu sei il Lupe. Bar.